Laura si diceva che ora finalmente le cose sarebbero andate meglio, ma non fu così. I guai non erano finiti. Ignorando l'avvertimento del medico, Melly si era affaticato troppo e un mattino particolarmente freddo, come si fu levato dal letto, per poco non finì a terra, perché non riusciva più a usare le gambe. Erano diventate insensibili fino alla coscia e fu solo dopo un lungo massaggio che, con l'aiuto di Laura, riuscì a fare qualche passo. Laura dovette aiutarlo ad accudire le bestie, poi attaccarono i cavalli al carro e Melly andò dal medico in paese. Una lieve paralisi, disse il medico, dovuta a eccessivo affaticamento durante la convalescenza dalla difterite. Fare in modo che Melly recuperasse l'uso delle gambe fu una battaglia durissima. C'erano giorni migliori e giorni peggiori, ma a poco cominciò a migliorare davvero finché tornò in grado di muoversi quasi come prima, seppure con molta cautela. Nel frattempo era venuta la primavera. La malattia, con la spesa del medico, era costata cara. Non c'erano soldi per arrivare fino al raccolto di quell'anno. I fittavoli del terreno a bosco avevano deciso di andarsene e Melly non era nelle condizioni di poter lavorare tutte e due le proprietà. Ma il bosco non era ancora loro e bisognava curarlo e farlo crescere se volevano avere la possibilità di riscattarlo a tempo debito. Si doveva trovare una soluzione. In quel momento di grossa difficoltà si presentò l'occasione di vendere la proprietà che possedevano. L'acquirente si sarebbe accollato l'ipoteca di 800 dollari e ne avrebbe dati a Melly altri 200. E così fu. Vendettero la proprietà e un giorno di inizio primavera si trasferirono di nuovo nella loro vecchia casa sul lotto a bosco. La trovarono alquanto malmessa, ma un po' di tinta, qualche nuova zanzariera alle finestre e una bella ripulita la fecero tornare accogliente e gradevole, come era sempre stata. Laura si sentiva di nuovo a casa sua, e per Melly era molto più facile andare e venire dalla stalla perché là il terreno era tutto pianeggiante. Nell'altra proprietà, invece, ogni volta doveva scendere e risalire il dosso. Stava lentamente recuperando l'uso delle gambe, ma bastava un piccolo inciampo a mandarlo ruzzoloni. Non riusciva a scavalcare nessun oggetto, neppure un pezzo di legno, ma doveva girarci attorno. E aveva le dita delle mani ancora troppo intorpidite per riuscire ad attaccare o staccare i cavalli dalle macchine o dal carro. Ma quando erano pronti a partire, sapeva come guidarli. Era Laura, perciò, ad attaccare i cavalli. Lo aiutava a salire e si faceva trovare pronta quando tornava. Il fittavolo aveva preso in consegna la concessione a Bosco quando la aratura d'autunno era già stata fatta, sicché ora Melly si trovò il terreno arato. Non restava che fare i solchi e seminare. Lavorava lentamente, ma riuscì a finire in tempo utile. Piove quando doveva piovere e frumento e avena cominciarono a crescere. Che solo continuasse così e non grandinasse mai. C'erano tre vitellini nella stalla e due puledrini che scorrazzavano ovunque, oltre al puledro che avevano comperato con l'ultimo stipendio di maestra di Laura e che ora aveva 3 anni. Era un bel cavallo, sano e robusto. Il loro piccolo pollaio, inoltre, forniva uova in quantità. No, non andava poi così male, in fondo. Rose sgambettava per la casa, giocando con il gatto, aggrappandosi alle gonne di Laura per starle appresso mentre svolgeva le faccende domestiche. Tra il lavoro in casa, accudire Rose e aiutare Melly quando ne aveva bisogno, per Laura erano giornate faticose. Ma non ci badava, perché Melly stava recuperando l'uso delle mani e delle gambe. Le conseguenze della paralisi diminuivano via via, seppure lentamente. Melly passava gran parte del tempo a occuparsi del bosco. L'estate precedente era stata troppo secca e i giovani alberi non buttavano come avrebbero dovuto. Alcuni erano morti. Melly li sostituì, poi li potò tutti, zappò attorno alle radici e arò il terreno tra un filare e l'altro. Frumento e avena intanto crescevano che era una meraviglia, verdi e rigogliosi. Si mette bene quest'anno, disse Melly. Un'annata buona ci rimetterà in sesto e abbiamo tutti i motivi per essere fiduciosi. I cavalli non avevano molto lavoro. Quello che c'era da fare lo facevano Skip e Barnum, ma Fly e Trixie se ne stavano tutto il giorno a pascolare, legati al loro picchetto, e ingrassavano. Melly disse che bisognava farli muovere, ma Laura non poteva lasciare sola Rose. né se la sentiva di portarsela presso sulla sella, era troppo pericoloso e le avrebbe fatto perdere tutto il piacere della cavalcata. Dopo cena, però, quando la metteva a letto, non aveva più niente da fare. Rosa era così stanca dall'aver giocato tutto il giorno che si addormentava subito e dormiva per ore. Laura e Melli presero l'abitudine di sellare i cavalli e farli correre su e giù sulla strada davanti a casa. Una galoppata di mezzo miglio verso sud e ritorno, il semicerchio della carreccia d'ingresso, un'occhiatina a Rosa che dormiva beata, un altro mezzo miglio, questa volta verso nord, e di nuovo un'occhiata a Rosa, fin tanto che i loro cavalli non erano stanchi. Trixie e Fly gradivano quelle corse notturne al chiaro di luna, costellate di scarti improvvisi per lo spavento di un'ombra mossa dal vento o del salto di un leprotto sul sentiero. Una domenica il cugino Peter venne a dire che il signor Whitehead voleva vendere il suo gregge di un centinaio di pecore di pura razza a Shropshire. Ci sarebbero state le elezioni presidenziali in autunno e i pronostici erano a favore dei democratici. Il signor Whitehead era un repubblicano convinto ed era certo che in mano ai democratici il paese sarebbe andato in malora. Sarebbero stati tolti i dazi e il prezzo della lana e delle pecore sarebbe crollato. A detta di Peter era un buon affare. Lo avrebbe comprato lui se solo avesse avuto un posto dove metterlo. Un buon affare quanto? Cosa verrebbe la spesa? Chiese Manly. Secondo Peter si potevano spuntare 2 dollari a capo perché Whitehead era preoccupatissimo. Considera che in primavera si andrebbe quasi in pari con la vendita della lana, aggiunse. I capi erano 100. Peter doveva avere 100 dollari di paga per il lavoro fatto fin lì. Era la metà di quello che serviva per avere tutto il gregge a 2 dollari il capo. Laura stava ragionando ad alta voce. Pascolo ne avevano quanto volevano, si occupavano il terreno riservato a una scuola che si trovava appena più a sud della loro proprietà, un lotto intero a pascolo e fieno che poteva usare chi ci arrivava per primo. Per la prima volta Laura si rallegrò che il Dakota destinasse per legge alle scuole 2 lotti di terreno in ogni comune, e in particolare che uno di quelli fosse adiacente alla loro proprietà. Pascolo e fieno ne possiamo avere in abbondanza e un ricovero per l'inverno lo si può costruire, disse Melly. Ma gli altri 100 dollari? Chiese Laura. Melly le rammentò che avevano il puledro acquistato coi suoi risparmi. Riteneva di poterlo vendere per un centinaio di dollari. Se si sentiva di scommettere sulle pecore, poteva comperarlo lei in mezzo gregge. E così fu deciso. Se Peter riusciva a spuntare 2 dollari a capo, Laura ci avrebbe messo metà della somma. Peter si sarebbe occupato di far pascolare il gregge sul lotto della scuola durante l'estate e avrebbe aiutato Melly a fare il fieno per l'inverno. Melly ci avrebbe messo le macchine. Potevano costruire un secondo fienile per le pecore, dietro quello dove tenevano le bestie, che si aprisse su uno stazzo recintato di filo di ferro. Peter sarebbe vissuto con loro e in cambio avrebbe dato una mano nella stalla. Pochi giorni dopo la vendita del puledro, Peter portò il gregge nello stazzo che avevano costruito appositamente. Erano 100 belle pecore sane, più 6 pecore vecchie che gli avevano regalato in sovrappiù. Da quel giorno, tutte le mattine Peter portava le pecore a pascolare sul lotto della scuola, badando a tenerle lontane dall'erba che volevano destinare a fieno. Pioveva di frequente e sembrava quasi che il vento quell'anno soffiasse meno violento del solito. Frumento e avena venivano su proprio bene. Temendo la grandine, Melly e Laura spiavano il cielo continuamente, purché il tempo tenesse. I giorni passavano senza portare tempeste e Laura si scopriva a pensare: tutto va in pari alla fine. Il ricco ha il ghiaccio d'estate e il povero d'inverno. E ogni volta le veniva una risatina nervosa in gola. No, non doveva cedere alla tensione. Ma riuscire per una volta a raccogliere e a vendere il frumento avrebbe fatto tutta la differenza. Il fatto stesso di non avere più debiti e di poter usare i soldi degli interessi per vivere avrebbe reso tutto tanto più facile. E finalmente il frumento giunse a maturazione e anche quell'anno Melly stimò che avrebbe reso 40 stai all'acro. Ma un giorno il vento girò da sud ed era un vento caldo. Prima di pranzo era diventato torrido e violento e soffiò 3 giorni interi. E quando cessò, la mattina del quarto giorno, il frumento era giallo e vizzo. I grani erano cotti, secchi, avvizziti, invendibili. Non valeva neppure la pena di mietere. Melli attaccò Skip e Barnum alla falciatrice e falciò tutto il campo di frumento e quello di avena per farne foraggio per le bestie al posto di biada e fieno. Finito quel lavoro, cominciarono subito a falciare nel lotto della scuola. Dovevano fare presto per prendersi il fieno prima che arrivasse qualcun altro con la stessa intenzione. Se erano i primi a falciare, restava a loro. Laura e Rose tornarono a passare le giornate nei prati. Laura falciava mentre Melly raccoglieva l'erba falciata il giorno prima. Pagarono un ragazzino che abitava nelle vicinanze per badare al gregge perché Peter desse una mano a Melly. Impilarono grandi balle di fieno tutt'attorno al ricovero delle pecore e anche sui tre lati dello stazzo più esposti al maltempo, lasciando libero solo il lato che dava a sud. Venne il 25 agosto e così finì il terzo anno della loro vita di agricoltori. Un anno di grazia. Come ebbero finito di fare il fieno, cominciarono immediatamente le arature d'autunno, ma Skip e Barnum erano molto provati da tanto lavoro e Trix e Fly non erano di grande aiuto, erano cavalli piccoli da sella, poco adatti ai lavori agricoli. A volte Fly non ne voleva proprio sapere e scalciava furiosamente quando le mettevano i finimenti. Un giorno, mentre aiutava Melly ad attaccare i quattro cavalli all'aratro, Laura perse di vista Rose e quando se ne accorse mollò tutto per guardarsi attorno chiedendo: «Melly, Melly, dov'è Rose?» Una manina si levò la coda di Fly dalla faccia. Dietro ai quattro cavalli appaiati un faccino tondo comparve tra le zampe di Fly e la coda, e una vocetta allegra gridò: «Sono qui!» Ormai Melly aveva recuperato quasi del tutto l'uso delle mani. Forse a breve sarebbe riuscito a preparare i cavalli e a stringere tutte le fibbie da sé. La sera le bestie erano stremate. Quando le staccava dall'aratro, a Laura si stringeva il cuore vedendo come Skip, che la portava sempre alta e fiera, teneva penzoloni la testa e come erano ferme e pesanti le zampe, di solito così agili e nervose, di Barnum. Melly disse che aveva bisogno di altri due animali da lavoro perché intendeva dissodare altri 60 acri di terra vergine per poter seminare tutti i suoi 160 acri di terreno la primavera successiva. «Ma ormai sono passati 3 anni e ti pare che sia andata bene fin qui?» obiettò Laura. «Beh, non so», disse Melly, «non va poi così male. È vero, la campagna è stata un fallimento, ma adesso abbiamo quattro vacche e alcuni vitelli e i quattro cavalli, i puledri, le macchine, le pecore. Basterebbe una buona annata e saremmo a posto». «Proviamo ancora un anno, dai, potrebbe essere questa la buona annata che aspettiamo da tempo e poi, ora per lavorare la terra siamo a posto, mentre soldi per avviare un'altra attività non ce ne sono». Suonava ragionevole in bocca a Melly. E poi, che altro potevano fare? Ma quanto all'essere a posto, i 500 dollari della casa preoccupavano Laura, il debito era ancora intatto e neanche la mietilegatrice era stata pagata del tutto e gli interessi pesavano. Ma forse Melly aveva ragione. Quello poteva essere l'anno della svolta. Sarebbe bastata un'annata buona per riportarli in pari. Melly acquistò due buoi di razza a Durham già addestrati al lavoro. Erano bestie gigantesche. King era rosso e pesava 2.000 libbre. Duke era pezzato, rosso e bianco e pesava 2.500 libbre. Erano docili come vacche e Laura imparò presto ad attaccarli all'aratro senza timore. Prima però chiudeva sempre Rose in casa. Li avevano pagati solo 25 dollari l'uno ed erano robusti, così Skip e Barnum presero il posto di Fly e Trixie e questi passarono a fare il lavoro leggero, mentre il grosso della fatica toccava ai buoi dietro di loro. Finita l'aratura, Melly riuscì a dissodare i campi nuovi prima che il terreno gelasse. Ebbe tutto il tempo perché l'inverno tardò e l'autunno fu mite e gradevole. Fu un inverno senza le usuali temibili tempeste da nord, benché molto freddo e non privo di neve. La casa era comoda e confortevole, con doppie finestre e doppie porte a protezione dal freddo. La stufa a carbon fossile era stata sistemata tra la porta d'ingresso e la finestra che dava a est. Melly aveva migliorato la tenuta del ripostiglio, quello che d'estate usavano come cucina, chiudendo tutte le commessure tra le tavole, sicché avevano deciso di lasciare là la cucina economica. Avevano spostato il tavolo nel soggiorno, tra la porta della dispensa e quella della camera da letto, e la branda di Peter era stata sistemata contro la parete a ovest, dove un tempo avevano il tavolo. Sui davanzali, col sole invernale e il calore della stufa, fiorivano in barattoli di latta rigogliosi gerani. Le giornate trascorrevano veloci e gradevoli, tra le faccende di casa e la bambina. Laura era sempre indaffarata, anche la piccola Rose, una bimbetta seria e curiosa, aveva sempre da fare. Giocava coi suoi libri illustrati e l'alfabeto di legno o rincorreva il gatto per tutta la casa. Mellie e Peter passavano gran parte della giornata ad accudire le bestie. La stalla si era allungata. Dopo i vecchi box, dove stavano i cavalli e i puledri, ora c'erano i buoi e poi le vacche, i vitelli e in fondo l'angolo dove andavano ad appollaiarsi le galline. Di là si passava nel secondo fienile dove stavano ammassate le pecore. Non era un lavoro da poco, tenere pulite tante bestie e riempire tante mangiatoie. E poi bisognava dare la biada ai cavalli e strigliarli regolarmente. E tutti gli animali dovevano avere acqua fresca una volta al giorno. Nelle belle giornate, Mellie e Peter andavano a prendere il fieno per le bestie dalle biche nei campi. Una parte la lasciavano sul carro nello stazzo a disposizione delle pecore. Di solito tornavano ben prima che fosse ora di sistemare la stalla per la notte, ma un pomeriggio tardarono a partire. Siccome c'era parecchia neve che il vento aveva accumulato qui e là, avevano attaccato i buoi al carro, perché nella neve fonda lavoravano meglio dei cavalli, ma andavano più lenti e quando calò il buio erano ancora a un miglio buono da casa. Aveva cominciato a nevicare fitto. Non era una vera bufera di quelle temibili e non c'era pericolo, ma il vento teso, seppure non forte, era fastidioso. Intorno era buio pesto e i buoi andavano a passo lento. A un tratto sentirono nel buio l'ululato di un lupo e poco dopo ne sentirono un altro e poi parecchi insieme. Oh, negli ultimi tempi i lupi non avevano fatto grandi danni, anche perché nella regione ne erano rimasti pochi, ma a volte si facevano vedere e di tanto in tanto uccidevano un vitello brado o cercavano di entrare in un ovile. Sembrano dalle parti di casa o che stiano andando in quella direzione, disse Melly. Riusciranno a entrare nel recinto delle pecore? No, no, perché c'è Laura, rispose Peter, ma Melly era preoccupato e cercarono di affrettare il passo. A casa Laura era in pensiero. La cena era quasi pronta, ma sapeva che Mellie e Peter sarebbero passati nella stalla prima di sedersi a tavola. Avrebbero già dovuto essere arrivati. Perché tardavano tanto? Rosa aveva mangiato e dormiva tranquilla, ma Nero, il cane, era inquieto. Ogni tanto alzava il muso e ringhiava. Poi Laura lo sentì. L'ululato di un lupo e un altro, molti, tutti insieme, poi più nulla. Silenzio. Aveva il cuore in gola, che stessero venendo al recinto delle pecore. Restò immobile, in ascolto, ma non sentì altro che il picchiettio della neve contro i vetri. O era un belato? Doveva andare a vedere se le pecore erano al sicuro? Esitò, guardando Rose. La bambina dormiva, placidamente. Non poteva succederle nulla, anche se restava sola. Allora Laura si vestì, si tirò il cappuccio sulla testa e, prendendo con sé una lanterna accesa e il cane, uscì nel buio della bufera. Corse alla porta del fienile, l'aprì e prese il forcone a cinque punte, poi richiuse ben bene e, dondolando la lanterna per fare luce in tutte le direzioni, percorse tutta la lunghezza della stalla. Nero le trotterellava davanti, annusando l'aria, girarono attorno allo stazzo, ma tutto era tranquillo. Si sentivano solo le pecore muoversi inquiete dentro il recinto. Non vide nessun lupo, né sentì nulla finché, fermandosi un momento ancora davanti al cancello dello stazzo, prima di tornare in casa sentì un altro ululato, uno solo e molto più distante di prima, laggiù verso nord. I lupi, ah, dovevano essere passati oltre, diretti a ovest. Era tutto tranquillo, anche se Nero si era messo a ringhiare. Fu solo quando si trovò di nuovo al sicuro in casa che si rese conto di aver avuto paura. Le ginocchia le tremavano tanto che dovette sedersi. Rose dormiva ancora e non molto tempo dopo arrivarono Mellie e Peter. Che facevi se trovavi i lupi? Li cacciavo via col forcone. L'avevo preso per quello, disse Laura. In dicembre ricominciarono i malesseri che ormai Laura conosceva. Era sempre di cattivo umore e mal tollerava di stare chiusa in casa. Le pareva di soffocare. Ma doveva provvedere al resto della famiglia, cucinare, tenere accesa la stufa. C'erano tante cose da fare ed era compito suo farle. Un giorno in cui era particolarmente abbacchiata, sentì un carro fermarsi davanti alla porta. Era il signor Sheldon, uno scapolo che viveva nella proprietà adiacente alla loro più a ovest. Il giovane scese, portò dentro un sacco di juta pieno a metà e scuotendolo dal fondo le rovesciò sul pavimento la serie intera dei Waverly Novels di Walter Scott in edizione economica. «Ho pensato che magari le piacciono», disse. «Non c'è fretta, se li legga pure con tutta calma». E mentre Laura lo ringraziava felice, lui uscì di corsa. Si chiuse la porta alle spalle e ripartì. Ed ecco che le quattro pareti di quella casa, che le sembrava tanto stretta e soffocante, improvvisamente si aprirono. E grazie alle pagine di quei romanzi meravigliosi, Laura si ritrovò in compagnia di arditi cavalieri e belle dame, lungo i laghi e i fiumi di Scozia, in torri e castelli, saloni di nobili e stanze di fanciulle. Dimenticava perfino che la vista e l'odore del cibo le davano la nausea, per la fretta che aveva di cucinare rapidamente e tornare al più presto alle sue storie. Quando ebbe finito tutti i libri e tornò alla realtà, scoprì che stava molto meglio. C'era una bella differenza tra i leggendari scenari dei romanzi di Scott e quella casettina nella prateria, cupa e piena di vento, ma qualcosa della loro magia e della musica di quelle pagine era rimasta con lei. E il resto dell'inverno le parve più leggero. La primavera cominciò in anticipo con inusitata mitezza. Il 1° di aprile gran parte dei campi era già stata seminata e ovunque si vedeva gente al lavoro in campagna. Il mattino del giorno successivo splendeva il sole. Era una giornata calda e senza vento. Peter portò il gregge a pascolare sul lotto della scuola, come sempre, e Melly andò nei campi. Poiché faceva ancora fatica ad attaccare le bestie, Laura uscì ad aiutarlo, poi tornò dentro a sbrigare le faccende di casa. Poco dopo, da nord-ovest si levò il vento, non forte all'inizio, ma via via più teso e violento, finché alle 9 la bufera di polvere divenne tale che Melly, nei campi, non riusciva più a vedere niente. Dovette tornare a casa e Laura lo aiutò a staccare le bestie e a ricoverarle nella stalla. Quando furono tutti e due in casa, ascoltando il ruggito del vento, cominciarono a chiedersi dove fosse finito Peter. Non può essere andato molto lontano in così poco tempo e certo con un vento simile vorrà tornare indietro, disse Melly. Ma la polvere fuori era tale che dalla finestra non si vedeva quasi nulla, sicché Melly uscì di nuovo per andare a cercare il gregge e dare una mano se necessario. Trovò Peter a non più di 400-500 passi dall'ovile. Andava a piedi con tre agnellini in braccio e il cavallo per le briglie, ma nonostante l'aiuto del cane, faticava a far procedere il gregge nella direzione giusta. Per tornare all'ovile le pecore dovevano camminare controvento e quasi non ce la facevano. Non erano ancora state tosate e il vello era lungo e pesante. Piccole com'erano, sulle loro esili zampe, con quella gran massa di lana addosso, non riuscivano a opporsi alla forza del vento. Bastava che una si girasse un poco di fianco perché il vento la sollevasse letteralmente da terra e la mandasse rotoloni, zampe all'aria. E ci voleva un pezzo perché riuscisse a fermarsi. Poi però non ce la faceva a rizzarsi in piedi. Ogni volta Peter doveva correre dietro alle pecore che cadevano, prenderle e rimetterle in piedi nella direzione giusta. Era esausto e in quell'operazione cane e cavallo erano più che altro d'intralcio. Per fortuna ora era arrivato Melly. Ci volle un'altra ora piena prima che i due riuscissero a portare tutte le pecore nell'ovile. Poi se ne stettero tutti quanti chiusi in casa ad ascoltare il vento. Quel rombo continuo li assordava. Avevano gli occhi e la gola irritati dalla polvere che entrava nella stanza, nonostante avessero sbarrato porte e finestre. Poco prima della mezza sentirono bussare alla porta. Quando Melly andò ad aprire, un uomo mise dentro la testa. Ehi, mi sono fermato solo per dirvi che le vostre ruote là fuori girano da sole, disse, indicando vagamente la direzione della stalla. Poi tornò di corsa al suo carro, ci montò sopra e se ne andò. Aveva la faccia così nera di polvere che lì per lì non lo avevano riconosciuto. Era il tizio a cui avevano venduto la proprietà. Laura scoppiò in una risata nervosa. Le ruote girano da sole. Ma che voleva dire? Chiese Amelie. Capirono solo quando andarono a guardare fuori dalla finestra della cucina. Il vento aveva sollevato e capovolto il carro con il cassone del fieno sopra, che avevano lasciato là fuori, a metà strada tra la stalla e la casa. E ora il carro era là, capovolto sopra il cassone, con le ruote all'aria che giravano vorticosamente sotto la spinta del vento. A pranzo mangiarono un boccone freddo perché nessuno aveva fame e accendere il fuoco era pericoloso. Intorno all'una, Laura cominciò a dire che sentiva puzza di bruciato e che doveva esserci un incendio da qualche parte non molto lontano, ma in quel turbinio di polvere era impossibile vedere del fumo in lontananza. C'era sempre vento quando scoppia un incendio e nella prateria il vento spesso è tanto forte da portare le fiamme ben oltre il punto che sta bruciando, di modo che il fuoco viaggia molto più in fretta di quanto bruci l'erba. Una volta Melly e Peter erano corsi a cercare di difendere un grosso pagliaio dal fuoco. Erano arrivati fin là, a briglia sciolta, ed erano saltati giù di sella proprio nel momento in cui una fiamma, portata dal vento, aveva appiccato il fuoco al lato opposto del pagliaio. Avevano con loro dei sacchi di juta bagnati. Salirono sul pagliaio e si lasciarono scivolare giù dall'altra parte, raschiando via il fuoco coi sacchi, per estinguerlo una volta a terra. In quel modo, spingendo verso il basso gli steli che prendevano fuoco via via, erano riusciti a salvare il pagliaio, perché nel frattempo le fiamme erano passate oltre, lasciando indenni loro e i cavalli. Gli animali si erano messi col muso contro il pagliaio in modo da poter respirare. Il vento raggiunse il culmine intorno alle 2 del pomeriggio e poi cominciò a mollare, anche se all'inizio così lentamente che era difficile notarlo. Cessò del tutto col calar del sole. Rose dormiva con il faccino tutto imbrattato di polvere e rigato di sudore. Laura si sentiva esausta. Melly e Peter avevano il passo dei vecchi quando andarono ad accudire le bestie.